Carissimi amici di Runtime Radio, bentornati a questa nostra nuova puntata di Morti di Bestemmie nella sua versione standard dal titolo Banalità e Luoghi Comuni su Donald Trump, che insomma oggi sarà la vittima delle nostre banalità e luoghi comuni. E con me c'è Marco Gualdi. Buonasera, tante cazzate e luoghi comuni a tutti. Siamo tornati in questa puntata. Non so se mi si sente, ma io mi sento che mi sento. Quindi da quello che vedo lì, sì. Salutiamo Carmine Puccio Consol, con il quale andrò in vacanza quest'estate, diciamo. Perché è una persona noiosa. Infatti sì, anch'io penso. No, in realtà è simpatico e ci vogliamo bene. Abbiamo già prenotato la vacanza quest'estate. Frega un cazzo a nessuno, ma con noi, lo apro perché sennò non lo sentirete mai, c'è anche Alex Raccuglia. Buon ciao a tutti, zio minchia. Allora, come ho detto nella prediretta, prima ricordandovi insomma che ci sarebbe stata questa puntata, oggi è un po' complicato, fai i scemi, perché ce l'abbiamo qua, sta dietro l'angolo, se quello ci ascolta. Cosa? Come cosa? Cosa ci abbiamo dietro? Il soggetto della puntata sta dietro l'angolo. Tra l'altro sì, ma no, non intendevo quello. Dicevo che ultimamente ci è capitato spesso di fare le puntate di Morti di Bestemmie in situazioni dove succedeva qualche cosa, perché qualcosa succede sempre di questo periodo. E quindi, vabbè, quello che è successo stanotte a Manchester, un po', insomma, diciamo che scherzacce sopra, un po' difficoltoso, insomma. E io che ascolto Lateral tutte le mattine, per esempio, anche Bottura stamattina ha fatto un po' fatica. Io non voglio fare, insomma, troppa retorica su sta questione, quindi lasciamo perdere e cerchiamo di entrare. Però ecco, ci scusate se non siamo proprio al top della super brillantezza, giusto Alex? Sì, giusto. Soprattutto io comincio a pensare che forse potrebbero telefonarci i nostri teleascoltatori dicendo: smettete di fare Morte di Bestemmie, altrimenti qui muoiono tutti quanti. Ah, dici che siamo noi che siamo la causa? Ma ho questo sospetto. Perché da quando è iniziata Morte di Bestemmie è stata un'escalation di terrorismo a livello planetario. Sono belle cose, Marco. No, io sono fiero comunque, perché comunque significa che il nostro contributo alla storia è importante, insomma, non certo. Semplicemente cazzate e banalità, ma anche atti terroristici, insomma, cioè, dobbiamo mettere tutto nel curriculum e via. Io ho abbassato la musica che c'era sotto, che dura 50 anni, pensavo che andasse sfumando e probabilmente poi la gente non sentiva nonostante il dagging. Salutiamo anche Simone Gusella, che è stato ospite recentemente proprio a MDB Summer Radio con Alex Raccuglia, dove hanno fatto una bellissima puntata noiosissima. No, tu non l'ascolti, che cosa ne perché sai? Sono noiosi a prescindere. No, è una bella puntata che si è partito da Beethoven fino a Frank Zappa, insomma, una cosa interessantissima. E a me è piaciuto, anche se la più bella puntata di Alex, insomma, è stata quella bolscevica, giusto Alex? Sei orgoglioso di quella puntata? Di quella puntata sì, sono particolare, ma sono orgoglioso di tutte le puntate, sono molto felice, saluto i miei Guso e Ceso, a meno che credo che siano così perché hanno tutti i nomi da giovani, io non lo ricordo mai, però quella sul sogno tecnologico bolscevico, che è nata in un modo e poi è diventata una puntata quasi ideologica, sì, è quello che mi ha spremuto più il cuore, mettiamola così. Detto questo, vi ricordo che c'è MDB Summer Radio, mdbsr.runtimeradio.it, andate e cercatene tutti. E domani sera sei in diretta. No, domani sera c'è lo speciale proprio della trasmissione di Gusella e Cesare Giraldi su Star Trek, con noi ospiti, pure Luca Casciola. Ma sarà una puntata noiosissima. Sì, parleremo di cose che ancora non ci sono, quindi questa è la cosa. Banalità e luoghi comuni su Star Trek. Esatto, la puntata è l'ennesima, un'altra volta l'ultima frontiera, che dopo un po' ci ha anche un po' rotto i coglioni. Comunque cercate Morti di Bestemmie su Facebook, appunto, cercate Morti di Bestemmie, ci cercate anche su Twitter, lo trovate facilmente, Morti di Bestemmie 1. Quindi, Morti di Bestemmie 1, esatto, 1, perché se no, e poi non so dove altro potete trovarci. Comunque www.runtimeradio.it e Runtime Radio, ovviamente la pagina ufficiale della nostra radio. Io direi di iniziare con questa puntata, che come abbiamo detto si chiama Banalità e Luoghi Comuni su Donald Trump, perché in qualche modo si ricollega a cose di cui abbiamo già parlato, cioè nel senso, ai bambini minchia viziati, quelli che possono fare un po' tutto quello che gli pare, quelli che poi crescono e si ritrovano a giocare che col pulsante, che con il joystick proprio con la bombetta nucleare. Esatto. Perché io mi immagino sto Donald Trump che è cresciuto e parcheggiava la macchina dove... di Donald Trump? Sì, esatto. Beh, diciamolo. No, l'abbiamo già detto. No. Due o tre volte abbiamo detto anche. Ma come no? No, e, mi immagino sto Donald Trump da ragazzino che, capito, col macchinone che parcheggiava dove gli pareva. Scusi, lei ha parcheggiato, frega un cazzo a me, io faccio quello che mi pare. Perché poi questo, insomma. Cioè, Donald Trump è praticamente Maccio Capatonda. Sì, o Maccio Capatonda è anche un po' Donald Trump. Tu come lo vedi? Donald Trump da arancione. Bambino, Marco. Sempre arancione. Arancione quello, vabbè. No, da bambino era un po' meno arancione. Si è arancionizzato con la vecchiaia. Con la vecchiaia, si succede. E, non so, come lo vedo? Come lo vedo molti ragazzi coatti dei noantri, insomma. Poi alla fine che poi se tu consideri che lui è nato a New York, che in generale, vabbè, non in senso assoluto, ma è una città anche progressista, no? Anche i ricchi lì, insomma, sono un po' progressisti. Lui invece proprio è lui... tipo dell'Ohio. Beh, però New York è enorme. Un conto è Manhattan, sì, dove c'è proprio tanta, il clou. Tanta per... roba lì, insomma, quindi c'è di lui. Alex. Sì, però appunto, nei dintorni di New York ci sono 12 milioni di persone, c'è il Bronx, c'è il Queens, c'è Brooklyn, dall'altra parte c'è il New Jersey, cioè non è, cioè, il centro è sì Capital City di, come si chiama, di Hunger Games, però tutto attorno è tanta periferia e tanto ghetto, secondo me. Vabbè, ma io non credo che Donald Trump sia cresciuto nel ghetto, fondamentalmente. No, no, insomma. Infatti. Cioè, qui la cosa che poi mi fa un po' strano, no? È che in realtà noi siamo abituati a vedere questi rampolli delle famiglie che fanno, è vero che, nel senso, è il padre, penso, che abbia fatto i miliardi, no? Se non sbaglio. Sì, beh. Milioni, più che miliardi. Milioni di miliardi. Che praticamente magari sono cresciuti con una certa educazione, devono essere capaci di stare nella società, insomma, nella società bene, roba del genere. Invece io mi immagino proprio questo Trump che era un po' a bestia, insomma, era un po' come adesso, insomma. Anche perché noi lo abbiamo visto pure nella campagna elettorale, lui è un uomo di gran classe, soprattutto con le donne. Sì, lui ci tiene a dare una certa importanza alle donne, da trattarle come un fiore, insomma. Tu i fiori che cosa ci fai di solito? No, o li annaffio. Li annaffio, infatti, anche lui li annaffia, li piscio, però. Esatto. Ci piscia solo. No, ma perché c'era la famosa battuta del fatto che gli infilava le dita dentro e poi le tirava da tutte le parti, insomma, c'erano delle belle cose. Sì, sì, sì, sì. Beh. Tu, ci hanno fatto la campagna elettorale dei suoi avversari. Hai riconosciuto, insomma, questa classe con le donne di Donald Trump, ma in generale classe di Donald Trump? Purtroppo l'ho riconosciuta perché il piccolo Donald Trump ce l'abbiamo avuto anche noi. Con la differenza che il nostro sembrava ancora più macchietta, e però la gente c'ha bisogno della macchietta, non lo so, probabilmente questa è la cosa. La gente ha bisogno di qualcuno che gli dica: gente, è tutto, scusa, uno schifo, è colpa di qualcuno altro. Che capisce. La macchietta la capiscono. Ma ecco, questo è interessante. Marco ha detto una cosa interessante, perché oggi, poi alla fine, se vai a vedere, Donald Trump è il segno dei tempi, è il segno della politica di oggi. La politica di oggi non è fatta di discorsi, discussioni, analisi, è fatta di motherfucker, loser, fuck, boobs, pussy. Loser, sono i perdenti. Sì, ma sai chi sono gli ultimi loser per Trump? L'ISIS sono loser, ha detto losers, che sono losers. Sono perdenti. E questo, cioè, nel senso, oggi la politica la capisci così, cioè, nel senso, cioè, Beppe Grillo fa culo, stronzi. E questo è proprio e Donald Trump ne ha colto, diciamo. No, del tipo noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, cioè, esatto. Questo il bianco e il nero, proprio la semplificazione. Esatto. E la gente esatto. Queste cose le capisce. Tornando alla questione delle donne, e poi qui facciamo intervenire anche Alex. Ho visto che avevi colto una cosa, che oggi c'è stata una specie di gaffa qua. Insomma, una cosa. No, questa qui di Melania, tu dici. Esatto. Melania è vecchia. La roba delle mani. Ah, è roba vecchia. Sì, ma questa è roba vecchia. Raccontacela. No, è perché tutto sommato Melania, che ama da morire Donald Trump. Disinteressatamente. Assolutamente disinteressata, perché lui l'avrebbe sposato anche se fosse stato giovane e povero. per dire. Certo. Lei ha questa passione per il gerontofila, diciamo per così. La gerontofila. A parte quello, c'ha questa passione, ma l'avrebbe amato comunque, insomma, perché è una persona amabile. E c'è questo video che, tra l'altro, se cercate in giro lo trovate, in cui praticamente gli stringe la mano, lei. No, lei, lui cerca di prenderle la mano, sì, e lei proprio già era defilata in partenza, allora si defila. Tra l'altro, insomma, ma tra l'altro lei non dorme nella Casa Bianca, come sbaglio? Non lo so, ma mi sembra di no. Addirittura? Eh sì. Alex, tu sei gossiparo. Guarda, sai che non lo sapevo, ma da quanto mi ricordo sì, non mi sembra che dorma lì. Ma fa ridere tutto questo, cioè è assolutamente la cosa tristissima è che stiamo facendo una trasmissione su una cosa vera, invece dovrebbe essere questa cosa è stata prevista dai Simpson 10 anni fa, da Ritorno al Futuro per certi versi 20 anni fa, è stata una cosa, cioè stiamo vivendo una barzelletta e stiamo vivendo una gag vivente. Spero che non sia una gag col botto finale, insomma. Quello ci preoccupa. Beh, diciamo che lui poi all'inizio la buona volontà ce l'ha messa, perlomeno, poi dopo ci arriviamo, perché voi sapete che poi Donald Trump questa sera è a Roma, dopo essere stato in un viaggio in Medio Oriente, dove è andato pure da Abu Mazen. Chi ha detto io voglio che Israele e palestinesi fanno pace, però per sicurezza. però non mi parlate dello stato di Palestina, perché non frega il cazzo sempre, perché lui è so arabi e so losers, sono tutti ISIS e so losers, esatto, secondo lui, quindi giusto, vabbè. Non lo so, ma sta cosa dei Simpson, sai, io non me la ricordavo. Alex, raccontamela un po', perché cioè, me l'hai detto. Era in una puntata dei Simpson, di quelle che si svolgeva nel futuro, tipo quelle dove sognano, oppure quelle di Halloween, e c'era appunto Donald Trump presidente degli Stati Uniti, cioè mi sembra che fosse quella, ma non è tanto questa la cosa, è che appunto ci hanno tutti scherzato sopra e nessuno riusciva a prendere sul serio questa cosa, e poi in realtà è diventata vera, è diventata peggio, cioè diventa... perché poi se andate a vedere dice vabbè, se io sono sceneggiatore voglio fare una gag sul futuro, dico vabbè, è stato presidente Ronald Reagan, perché non fare presidente anche Donald Trump, che continua a andare in giro a insultare la gente, poi, perché insomma, questo è un po' il suo stile. Poi, tranne ne parliamo del suo amore innato per Jung King Kong, vabbè, il piccolo bambino viziato coreano, nordcoreano. Ah sì, no, poi dopo lui... questa è la sua storia d'amore prediletta, però diciamo quanto sono carini insieme, proprio tutto ci rivedo bene. Che poi secondo te, cioè, li metti veramente su un tavolo, secondo te finisce a sganazzoni? Però vince Donald Trump. Se lui finisce a sputi, se sputa ne basta. Però vince Donald Trump, perché io lo vedo più corpulento, quell'altro è un po' più. Ma lui conosce le arti marziane. Le arti marziane, vabbè. Alex, che diciamo su questa cosa delle donne? Ne abbiamo parlato, non ce ne frega un cazzo. Il linguaggio della politica. Io mi fermerei un po' su questa questione del linguaggio della politica, perché comunque Donald Trump è stato capace, nonostante che noi, che non capiamo un cazzo di politica e che viviamo dall'altra parte del mondo, dicevamo vabbè, ma perché aspetta, noi ci abbiamo come puoi provare a capire di politica, ma poi quando te vedi Berlusconi e Trump cioè io dice, cazzo. Allora vedi che ci ho capito il cazzo. Cioè, nel senso, questo ha parlato alla pancia degli americani, che in realtà c'è una pancia un po' strana. Tu un po' li conosci gli americani, perché li sei andati a guardare, no? Sì, cioè sì. Nel senso, un po' comunque un minimo d'osservazione te la sei fatta. Invece noi purtroppo abbiamo questo problema, che non riusciamo bene a capirli, perché purtroppo per colpa della televisione noi gli americani sono newyorkesi, che come tu dici spesso e volentieri, escluso Trump, i newyorkesi sono un'eccezione all'interno del contesto culturale degli Stati Uniti, che è molto vasto e variegato. Però questo poi alla fine comunque gli ha parlato la pancia degli americani. Qual è la lingua della pancia degli americani? Spiegaci. Allora, ma il concetto è che in America c'è tantissimo divario tra ricchi e poveri, ce n'è veramente tanti di ricchi e tantissimi di poveri, tanti, molto di più che in Italia. In Italia c'è molto più, anche se si parla di tanta nuova povertà, ma qui tendenzialmente è molto più ammorbidita la cosa, cioè in Italia vive molto il senso della famiglia, che tendenzialmente ci si aiuta un po' tutti a vicenda, per cui c'è magari qualcuno che sta male, ma non ce n'è così tanti. In America la gente che sta male ce n'è, gente che se perdi il lavoro in America sei fottuto, ma fottuto veramente, cioè nel senso non ti guardano in faccia, diventi un homeless, appunto, senza tanti problemi. Non è che ci sono gli ammortizzatori sociali, insomma. Ci sono, esatto, gli ammortizzatori, ma delle macchine che ti passano sopra, però, esatto. Quando sei homeless a voglia, cioè. Poi ci sono tantissime roulotteville, cioè villaggi dove la gente abita tendenzialmente nelle roulotte e fatiscenti, cioè veramente ce n'è tanta. Allora è ovvio che lui è andato a parlare a questa gente dicendo: è tutta colpa di quelli che c'erano, è tutta colpa del buco della sinistra, è presente? Se qualcuno ti dice che tu sei senza speranza, ragazzi, io vi do la speranza, io sono la soluzione, e tu non hai più speranza, a questo punto va, sì, oh, questo qua ci dice che ce la facciamo. Se gli altri ci dicono dove dobbiamo fare sacrifici, questo qua ci racconta la bella favolina, uno dice vai, vaffanculo, tanto vale, merda per merda. Cioè non è proprio così, però filosoficamente è abbastanza così. La gente ha bisogno di credere che ci sia il lieto fine, che non c'è, non c'è mai. Io forse sono un nichilista e sono depresso, però ripeto, dal mio punto di vista il lieto fine non c'è, ci sarà la fine, punto e basta. E lì c'è stato bisogno di qualcuno che gli dicesse una cosa del genere. Lui l'ha detto con parole talmente assurde, talmente grosse, che alla fine ce l'ha fatta, perché fondamentalmente dicendo dobbiamo tornare a essere i più grandi del mondo, probabilmente lo sono anche stati, però è proprio grazie al reganismo e al partito repubblicano, alla deregulation, che si è verificato quello che si è verificato. Dopo 50 anni di crescita continua è arrivato la serie di crisi una dietro l'altra, dopo l'ultima del 2008, che è stata quella che proprio ha mandato tutto a catafascio, che è stato, non è tanto per quelli che non avevano i soldi per pagare il mutuo, è che essenzialmente ha scoperto una sorta di vaso di Pandora per cui tutti hanno avuto terrore, e quando c'è la paura le borse crollano, e tutto è crollato così, quasi inutilmente, come nel 1929, e questo ha generato la più grande crisi dei nostri tempi. Dei noantri. Però che attenzione, c'era una breaking news, attenzione. Poco breaking, però molto news. Praticamente, secondo Donald Trump, che ha reso edotti tutti di dove andava a fare i viaggi in questi giorni, i paesi che andava a toccare con il suo Nobel deretano, secondo Donald Trump, cioè, la buona notizia è che la Corsica fa parte dell'Italia. Perché lui ha indicato nella mappa i confini degli stati dove andava, e ci ha messo anche la Corsica insieme all'Italia. Però attenzione, questa è la buona notizia, la cattiva notizia è che per lui tra lo Stato italiano e Città del Vaticano non c'è differenza. Beh, allora, però posso dire, ecco perché secondo me, come dice Alex, un po' Trump ha vinto, perché incarna veramente, secondo me, l'americano medio. Io mi ricordo la prima guerra del Golfo, non so se ve lo ricordate, che la CNN, che in Europa è diventata famosa grazie alla guerra del Golfo fondamentalmente, che è organizzata dalla CNN, cioè, spiegava esattamente, cioè nel senso faceva proprio con i freccioni dove stavano i luoghi, perché gli americani dove sta la Jugoslavia non lo sapeva. Per esempio, dove stava l'Iraq? Non lo sapeva. E non, perché saperle? E non gliene fregava manco un cazzo. Cioè, secondo me si confonde la Spagna e il Portogallo, sono la stessa cosa per gli americani. Ci sono abbastanza convinto di questa cosa. Intanto salutiamo Michele Schuren in chat. Cioè, Alex, io penso veramente, perché continuo a vedere, ma poi in realtà chi ha visto The Newsroom in una puntata, nascosto nella battuta, l'hanno detta sta cosa. Cioè gli americani, al di fuori del contesto loro, a livello geografico, non lo sanno come stanno collocate le altre nazioni, cioè, e questa è una cosa che è un po', insomma, è inquietante. Cioè io non è che ti dico che so perfettamente come, però insomma, dove sta la Nuova Zelanda, dove sta il Giappone, dove sta la Corea, più o meno me lo ricordo, insomma, cioè, perché questa... sono due cose diverse, il Giappone e la Corea. Esatto, non so, forse per Donald Trump però vabbè, cioè, infatti potrebbe attaccare Fukushima, cioè, però pensa, io vorrei tornare un attimo con Alex, perché ha fatto una, stava dicendo una cosa che a me interessa molto, no? Ma al di là della cravatta rossa di Donald Trump, che non capirò mai, nessuno mi spiegherà mai, no? Perché Donald Trump durante la campagna elettorale, ma in realtà vedendo anche le vignette che gli fanno, lui nella sua vita c'ha una suite, cioè nel senso è vestito sempre con sta giacca blu e la cravatta rossa, come i personaggi dei fumetti, esatto, c'ha sempre lo stesso vestito. Però quello che io non capirò mai degli americani è che all'americano povero, cioè a differenza del Brasile, che ci stanno le favelas, in America ci stanno appunto le, come detto, le roulotteville, però in Brasile ballano la samba e ne frega un cazzo, cioè nel senso se pongono il problema. Invece in America si rodono dentro, cioè la sentono la sofferenza sociale, no? Nel sentire la sofferenza sociale, a un certo punto arriva uno e dice: ragazzi, voi che siete poveri, io lo so qual è il problema è che dobbiamo far tornare l'America grande e quindi tagliare tutte le spese sociali. Esatto. Che è quello che l'americano che ha inculcata questa ideologia concettuale del capitalismo come forma estrema di antisocialismo, cioè nel senso, loro non è che sono capitalisti perché veramente il poveraccio che guadagna $500 al mese si pensa di essere veramente un capitalista, ma è talmente inculcato in lui che comunque l'opposto è sbagliato, che comunque preferisce così, tant'è che Donald Trump oggi hanno presentato il piano fiscale, cioè veramente più di $800 miliardi di tagli alla sanità, e quindi a tutti quelli che non hanno la possibilità di curarsi, quindi che stanno in una situazione di povertà, però il 10% in più spese militari, perché fanno sempre comodo quando, quando la popolazione si rivolterà contro, quel 10% più di spese militari torneranno utili, insomma, quindi si ammortizzeranno così. Però c'è anche la gaffe, non so se qualcuno se la ricorda, dell'inno nazionale d'aprile, che è consuetudine cantare con la mano sul cuore, e lui se l'era ascoltato, e quindi? E quindi Melania gli ha dato il colpetto, fatto, sul cuore, no, secondo me si era addormentato, no. Vi ricordate Berlusconi ogni tanto si addormentava, gli davano le pacche da dietro alle riunioni europee? Ma a lui piaceva quando gli davano le pacche da dietro, però. No, non lo so, vabbè, comunque non so, questa cosa è un po' inquietante perché sì, come dice giustamente Michele, alcuni non conoscono manco gli stati loro. Questo può, probabilmente è anche vero. Però io tornerei un attimo a questa questione del piano finanziario, Alex, perché a quanto pare, che è noto che io sono un grande esperto di economia. No, no, ma neanche noi, però insomma pare che gli investitori esseri tipo i cinesi sono incazzati, un pochino incazzati, perché pare che insomma se la cantino e se la sonino con questo nuovo piano finanziario, ma soprattutto pare che metà del Partito Repubblicano non è convinto di votarlo, visto che il prossimo anno, nel 2018, ci saranno le elezioni di medio termine, dove questi veramente rischiano di prendere gli schiaffi, che sperano che quelli che stanno male morono, perlomeno che non gli votano contro, insomma, perché questa è... Non so, io penso che se Obama ha governato con difficoltà, secondo me Trump Obama, secondo voi tu risale, se sta a fa se sta fa un sacco di... Hai visto che Obama rosicano? Va in giro per il mondo, fa il dietologo adesso di Obama, visto che è venuto in Italia, ha fatto una conferenza, hanno pagato tipo 100-200 dollari a biglietto per andare a vedere lui che parlava di dieta, quindi... Esatto, e che bello è che tu 400.000 euro se non hai soldi per mangiare. 400.000 euro lui da solo, hai capito? E dici non mangiate, che sono diventate come noi americani obesi. È un po' come io che recentemente a Monterotondo sono andato a un nuoto ristorante un po' di cialtroni, perché c'era Giorgione e Giorgione si è preso i soldi per 20 minuti di lavoro e tutti questi soldi erano ricavericati praticamente su quello che ci siamo mangiati, che sì, era buono, ma insomma non... vabbè, comunque io tornerei al discorso al discorso degli armamenti, perché praticamente che ha fatto Donald Trump durante questo viaggio? Donald Trump se n'è andato in Arabia Saudita, che è un paese notoriamente alleato degli Stati Uniti, notoriamente democratico e aperto, insomma, alla visione democratica. Qui poi sempre due pesi, due misure da parte degli americani, insomma, no? A vendergli tipo $200 miliardi di armi. Ma davvero? Capito? L'Arabia Saudita che è andata lì e dice, grazie. Allora, insomma, voglio dire, Alex, tu come la vedi sta cosa? Frega un cazzo. Fatica, ragazzi. No, il problema è che della politica di oggi, del 2000, degli anni 2000, ma anche degli anni 90, che c'è tante cose erano prima. Ti ricordi gli anni 80, la prima repubblica da noi? Le cose erano nascoste, uno magari aveva il sentore, ma non c'erano, non c'era la prova lampante, la cosa aperta. Quando c'era qualcuno che era indagato, ok, ragazzi, scusate, mi dimetto, risolvo i miei cazzi, poi eventualmente torno. Adesso e no, di solito le cose si fanno perché, sì, però le cose si fanno adesso alla luce del sole, nel senso, ah sì, chi se ne frega, fottiamo, prendiamo, truschiamo. Abbiamo conflitto di interesse, ma che cazzo ce ne frega? E le cose, ripeto, nonostante ci siano comunque attacchi da parte di alcuni media, si passano così. E questa è una cosa che a me dispiace tantissimo. Fatemi sentire vecchio per questo, però sì. Ah, c'è una rettifica da parte della chat dicendo che il biglietto per andare a sentire Obama che parlava di diete costava $800. Euro 850 euro, dollari, realtà, vabbè, 800. Secondo me erano i bagarini quelli che vendevano. Ma no, era così. Mortacci, così, cioè, di Pippo. E te credo che poi dopo fa la fame? $800. No, i bagarini erano quelli del CONI che per vendere i biglietti da finale Lazio Juventus vendevano le tevere a €200. Insomma, diciamoci la verità, diciamoci. Però vabbè, quindi noi ci siamo risparmiati dallo allo stadio, no? Perché tanto era inutile. Ma era inutile, soltanto una rosicata totale. Ma volevo parlare di James Comey, di chi? L'ex direttore dell'FBI, James Comey. Sì, io prima di arrivare a quello, però una cosa però bisogna riconoscerla a Trump, che Trump secondo me ha lanciato l'arancione più di Obama, secondo me ha capito come funziona essere presidente degli Stati Uniti. Cioè lui fa il presidente degli Stati Uniti come, che ne so, il contadino dell'Ohio direbbe: io se fossi adesso farei così, la stessa che lui fa così. Un po' come John Wayne. Quindi quando ha visto le brutte, che diciamo a questo a 3 mesi dalle elezioni stava al 32% di popolarità, che insomma diciamo è una popolarità un po' bassina per un presidente neoeletto, che ha fatto? E ha buttato 2 o 3 bombe a destra a manca, poi di quelle grosse, poi mica di quelle che le tirava bombe. Obama no, cioè, no. Che Obama in confronto era un dilettante, insomma, no? Lui è andato lì proprio le Moab, distrutto 2 o 3 montagne, cambiando la geografia del pianeta, e per quei 10 giorni comunque un po' gli ha fatto bene dal punto di vista elettorale. Alex, tu questa cosa l'hai percepita oppure è solo una banalità, un luogo comune che ho detto io? Allora, posto che noi per definizione facciamo solo, diciamo solo banalità, luoghi comuni per tutti, di tutti gli argomenti di cui parliamo, non lo so se questa cosa qua era necessaria oppure no. Forse era un messaggio come dire: io le bombe le uso, per cui non vi preoccupate, cari trafficanti di armi, io avrò sempre bisogno di voi, per cui e voi di me, viva le bombe, viva le armi. Non lo so, cioè, ripeto, devo dire che su questa cosa qua non sono, come dire, non sono un esperto di macroeconomia. No, però è un po' militare. Quello che hai detto prima te, cioè nel senso che oramai la politica si fa così, si fa facendo business. Cioè lui è stato eletto anche grazie ai lobby che gli hanno detto subito: andiamo a vendere questi 200 miliardi di armi a destra a manca, perché poi non a caso è stato in Arabia Saudita, poi è andato in Israele, insomma, che c'è da fare in Israele? A vendere altri 200 miliardi. Cioè, voglio dire, è così, e poi dopo è andato da Abu Mazen e gli ha detto: oh, è così che si fanno gli affari. A voi le armi non le vendiamo, perché voi non siete uno stato, per me. No, io non però, so chi siate, voi siete ISIS, non esatto. Voi siete arabi, ma anche gli altri erano arabi, ma quelli sono arabi diversi. Perché ricordiamoci, quelli sono gli arabi autorizzati ad andare in America, esatto, non come altri, esatto, arabi. No, questa cosa è decaduta, lo sai? No. Che pare che non... Sì, pare che sia decaduta sta cosa, che non sia più... Cioè, diciamo che non l'hanno recepita. Si è stata proprio cancellata. Adesso puoi riandare tranquillamente con il tablet dal tuo paese arabo. No, tablet no. Dico, l'ho letto l'altro giorno. Non col tablet. Sono sicuro. No, puoi andare col tablet, ma solo in versione verticale, non orizzontale. Esatto, perché sennò esplode. Così, per rompere i coglioni. Esatto. Ma proprio questa storia dei tablet che si ricollega all'ex poverino dell'FBI. Perché l'ex capo dell'FBI, che è quello che inizialmente gli parava al culo, poi tra l'altro, che gli parasse il culo non lo so, però evidentemente non abbastanza. No, dopo non l'ha più fatto, secondo me, perché praticamente lo ha cacciato e dopo qualche giorno è uscito fuori lo scandalo del presidente Trump che dà ai russi, quindi agli ambasciatori e ai funzionari russi, delle informazioni top secret, ma top secret, riguardo possibili attentati anche tramite dei tablet abbartizzati verticali. E tra l'altro questa informazione, che era top secret, che non sappiamo qual è, perché è top secret, era ora, okay, non è più, okay. Grazie a questa cosa gli era stata data da uno stato alleato con la dicitura: occhio, è top secret, rimane tra noi. E lui andrà a dire ai russi. quindi doppia figura del merda. Ma io questa cosa del questa, che lo hanno sputtanato perché questa sua amicizia con i russi subito, non la capisco, ha detto il vero Putin subito, oh, a me mi hanno detto sta cosa, ma che è vero. Ma non solo, ma non solo, perché poi la questione, allora, questa cosa dell'FBI è nata perché comunque già durante le elezioni c'era stato il fatto che avevano tirato fuori le mail della Clinton, roba del genere, che puta caso pure lì giustizia e orologeria era uscito fuori proprio durante la fase finale della campagna elettorale. Poi evidentemente deve essere successo qualcosa che sto direttore dell'FBI non voleva più supportare, probabilmente gli insabbiamenti che faceva sto matto, ma la cosa veramente bella è stata che il tutto, quando è iniziato, quindi è iniziata tutta sta roba del Russia Gate, è iniziata dicendo che lui aveva fatto ste telefonate ai russi e lui diceva no, non è vero, non abbiamo fatto le telefonate ai russi, e i russi invece hanno detto sì sì, ci ha chiamato, se volete vi facciamo anche vi diciamo anche che cosa ci siamo detti. Ah, perché lì hanno peggiorato la situazione, allora le registrate le telefonate, oltretutto no, ci abbiamo le trascrizioni, che è la stessa cosa. Poi c'è la gente che scrive mentre... più testimoni, esatto, cioè nel senso che stanno a fare un delirio su sta cazzata che veramente al di là di tutto è chiaro, è chiara solo una cosa, che a Trump gli vogliono far culo tutti quanti, cioè questo è abbastanza oggettivo, a parte quei 4-5. Sì, però a differenza di altri momenti, secondo me non riusciranno a beccarlo per impeachment. Beh, però la procedura è, cioè comunque pare da, comunque il super console, consigliere, super procuratore, mega generale, sta acquisendo tutte le informazioni. Pare chiaramente che i democratici, giustamente, abbiano, non so se già proprio direttamente ufficialmente, chiesto l'impeachment. Io ho visto che c'era così un deputato che ha proprio detto, cioè, che noi richiediamo l'impeachment. Poi non so se è stata depositata sta cosa, come funziona, perché non sappiamo come funziona in America. O se sì, e se come in Italia, ah, chiediamo le dimissioni. Esatto, no, esatto, perché onestè. Però in realtà pare che insomma il malumore ci sia pure dentro i repubblicani, cioè nel senso che chiaramente non si suicideranno, però pare che uno dei deputati dei repubblicani, che mo adesso ha dovuto ritratto a tutto durante la campagna elettorale, diceva questo tocca farlo fuori in qualche maniera, perché è un po' un problema, e poi succede, perché poi è bello che in America oramai esce fuori qualsiasi cosa, cioè non c'è più privacy per nessuno. Ah beh, soprattutto quando te devono sputtanare, cioè che noi ci preoccupavamo perché Putin metteva una puttana con registratore dentro il culo dentro la stanza di Berlusconi, e Berlusconi in quei momenti di libidine diceva sì, noi piani segreti, abbiamo basi missilistiche e via dicendo, anche enormi cazzate. E noi ci preoccupavamo di questa cosa perché diceva guarda che coglione, no? Però poi io penso a volte veramente, forse, e qui Alex non mi contesterà su sta cosa, parzialmente c'è quasi più dignità Berlusconi che Trump, cioè. So di una cosa assurda. Ma mia, oh, che è roba. Una bella lotta. È una bella lotta, dovrei dire che è una lotta che è il segno dei tempi. Non lo so, devo dirti la verità, non lo so. La differenza è che Trump è a capo comunque di una superpotenza e Berlusconi era il presidente del consiglio di un paese che ha un valore strategico importante, comunque ha un valore strategico importante, però finanziariamente siamo comunque con le iperpezze al culo, lo eravamo già negli anni 80, adesso ancora di più, cioè effettivamente siamo siamo veramente ridotti male, non facciamo innovazione, non c'è più ma soprattutto non ci sono più statisti, perché ai tempi dei Craxi, esatto. Che era Craxi, ma comunque all'americani gli metteva la mano in bocca, cioè nel senso, gli mandava i carabinieri, non c'è rompete i coglioni, diceva l'americani quando gli americani venivano a rompere i coglioni, perché insomma questa è un po' una cosa che bisogna anche rimarcare. Poi chiaramente purtroppo erano altri tempi, altre situazioni. Però sì, forse, vabbè, magari ho esagerato su questa questione di Berlusconi e Trump, però mi viene, mentre che Alex parlava, mi viene in mente che comunque fra tipo un anno, due anni saranno le elezioni, e che ne so, a un G7 si incontreranno, che ne so, a un G8 si incontreranno Putin, Trump e Di Maio, cioè nel senso che poi... perché tu pensi che Di Maio diventerà presidente del consiglio? Vabbè, qualcuno di loro ci diventa. No, dipende, faranno comunque una legge elettorale che glielo impedirà. Sì, no, ma guarda, lasciamo stare. Tranne, allora, la legge elettorale dice tranne che se sei Di Maio, cioè proprio il per sicurezza. Vai, Alex, scusa, no, tu. No, però pensarci bene, no, ripeto, se si votasse oggi avremmo il tripartito e sarebbe tre casino, poli sì. differenti. Sarebbe un casino e dal mio punto di vista se si votasse oggi vincerebbe probabilmente Salvini e che tutte le destre si unirebbero. Dal mio punto di vista. Non so, però potrebbe, sì. Non so, perché tu pensi che potrebbe vincere Grillo? Beh, certo, il problema di Grillo, secondo me, in questo momento, dato che, vabbè, esuliamo un attimo da questa questione di Putin, è il fatto che poi dopo sono andati a governare da qualche parte, e questo un po' li ha un po' incasinati, diciamo così. Sì, ma allora, adesso, no, Torino non so, ma a Roma li avete fatti vincere, ma proprio chiaro. Sì, andate. E c'è chi lo diceva la taverna, poi, eh? C'è sta il complotto, per faccio. C'è sta un complotto. Esatto, complotto c'è sempre. Ma io tornerei a Donald Trump, che insomma è Donald Trump più... che in aprile, ecco, c'è una breaking news, dichiarò in aprile, dopo il bombardamento alla Fox Business, disse: abbiamo lanciato 59 missili per colpire l'Iraq. E ovviamente la presentatrice disse: per colpire la Siria? Sì, la Siria. E ritorniamo sempre al suo discorso. Sa il cazzo lui. La Siria, ma non è l'Iraq. Signor Presidente, qui non ci vota più nessuno, Sparate sull'Iraq, sparate sulla Corea. Intanto qui entra gente in studio così a casaccio e non sappiamo che cosa vogliono. Ma vogliamo raccontare questi 100 giorni del presidente? Oppure la storia del presidente? Vogliamo raccontare la storia del presidente? Alex, però raccontacela tu la storia, perché tu. Ma Alex non la sa, secondo me. Ma neanche io. Non no, lo Alex sa nessuno, ha copiato e incollato Wikipedia bellamente su questo documento. Come fa sempre, perché io baso tutto su Wikipedia. Se un giorno domani scrivono una cagata abnorme, copio e incollo, la prendo per vera, come tutti i buoni leoni da tastiera. Beh, perché oramai Wikipedia è... che poi noi non ci rendiamo conto, ma sta cosa c'ha un sottile pericolo, poi cioè, nasconde. No, ma proprio sottilissimo. Sì, cioè, nel senso, noi la gente, perché come diceva Carlo Nocera, scherzando, ma in realtà secondo me non scherzava, lo dice di Wikipedia, quindi è la verità. Che è una follia, cioè proprio senza precedenti, anche perché Wikipedia c'ha anche un discreto numero di problemi legali per sta cosa, perché comunque non modifica e non aggiorna o non corregge Wikipedia Italia, profili Wikipedia. Anche a Wikipedia Italia in particolare, perché Wikipedia Italia soprattutto deve essere gestita dai coglioni, cioè nel senso la gente che gli hanno dato un potere e si sentono il potere, capito? Cioè nel senso di cui tempo fa, molto tempo fa, tipo 3-4 anni fa, sentì l'intervista di una delle responsabili dei Wikipedia Italia da Digitalia, e cioè soltanto sentendo la voce mi sono reso conto, insomma, che c'era un problema. E sì. Comunque, vabbè, del piano fiscale ne abbiamo parlato, questo ha fatto un taglio di 4.100 miliardi, non sappiamo neanche quanti sono, abbastanza, e quindi vaffanculo, insomma, e poi ha cambiato 50 anni di vita diplomatica degli Stati Uniti, insomma, quindi ci resta semplicemente da dire, prima andare poi nelle parti quelle insomma più tradizionali della nostra trasmissione, dove dovremo raccontare anche altre cose velocemente, un po' chi è, insomma, chi... Non so, cosa dice Wikipedia di questo personaggio? Non so cosa dice. Vai. Ok, Donald John Trump, la J sta per John, è un imprenditore e politico e personaggio televisivo statunitense. È nato a New York il 14 giugno del 1946 e per questo è il presidente eletto più anziano di sempre degli Stati Uniti. Ma si vede, è figlio si vede, di tale Fred Trump, che è un facoltoso investitore immobiliare di New York. Per cui ha intrapreso una carriera nello stesso settore. Ha frequentato l'università di Wharton in Pennsylvania, un'università molto prestigiosa, però nello stesso tempo lavorava nell'azienda del padre, la Elizabeth Trump & Son, qui. E divenne socio di questa dopo che si è laureato. Quindi praticamente lui la laurea l'ha presa così, cazzo di cane, un po' come il figlio de coso de... Come Trota. Esatto, come Trota, non mi veniva. Come si chiamava lui? Il Trota, dai. È il Trota. Capito? L'ex segretario della Lega, come si chiama? Beh, è il Trota, per me è il Trota. Ma Trota è il figlio, lui come Bossi. Si chiama? Trota Bossi. Bossi, ecco, okay, Trota, no, Bossi. No, l'abbiamo proprio dimenticato, Bossi, ragazzi. Vabbè, adesso c'hai gli asini, no? Adesso alleva gli asini. Ah sì, ok, vabbè. Ok, e quindi? Insomma, ha costruito un sacco di cose come imprenditore edile, uffici grattacieli, bla bla bla, e praticamente lui è a capo di questo che lui chiama il marchio, cioè Trump, che è una sorta di grande marchio che lui vorrebbe vendere anche più di quello che è in realtà. Ha vissuto una vita in maniera molto, cioè si è esposto, non è stato sotto traccia, nel senso si è sempre messo in prima linea. Beh, si vede che gli piace. È apparso in diversi film, serie televisive, come facendo dei camei, ed è arrivato alla popolarità con The Apprentice, cioè che è stato fatto anche in Italia da Briatore, prodotto e condotto tra il 2004 e il 2015. Ah, ho capito qual è, sì. Il suo patrimonio stimato è di 4,1 miliardi di dollari, che è più o meno quello che ha tagliato dalla... No, quelli sono 4.100 miliardi di dollari, okay, cioè. Quindi 10 volte tanto. non so veramente, ragazzi. Mille volte tanto. Vai, scusa Alex. Una cosa che non si sa è che lui è stato prima concorso nel 2000 alle primarie del Partito Riformista, credo che sia un terzo partito che nessuno caga negli Stati Uniti, poi ha aderito al Partito Democratico, ovviamente, poi infine al Repubblicano, e per cui diciamo che si è spostato un po' da tutte le parti, e anche le sue idee politiche espresse hanno avuto una certa variabilità. Beh, secondo appunto radicalismo, come stava, insomma. Sì, anche perché comunque in America è chiaro che tutti gli imprenditori fanno lobbying sia da una parte che dall'altra, cioè i soldi li danno ai repubblicani e ai democratici, che ne dicano. Tendenzialmente le sue idee politiche si sono radicalizzate verso appunto la fine della sua campagna, appunto perché doveva prendere una posizione netta, e la posizione netta è stata quella dell'estremismo. Infatti, come si dice sempre, ormai c'è sempre soltanto polarità e bipolarità, non c'è più una via di mezzo, cioè o si dice o è tutto nero o è tutto bianco, per cui lui ha deciso di essere assolutamente il buon paladino del dobbiamo spaccare tutto, viva me, viva me. Beh, una cosa che non molti sanno è che lui è andato in bancarotta 6 volte. Le sue società sono andate in bancarotta. Le sue società. Beh, però la cosa interessante... No, perché lui ci svolge. La cosa che ha detto... Ah, ok. Cioè, alcuni hotel e casinò tra Atlantic City e New York. Diciamo che la sua dichiarazione in tal proposito è stato: ho utilizzato le leggi di questo paese per pagare i miei debiti. Beh, abbiamo una compagnia, metteremo tutto a bilancio, negozieremo con le banche, faremo un grande affare. Sapete, è come al The Apprentice, non è un affare personale, sono solo affari. E ha dichiarato anche: ho sempre giocato con le leggi sulla bancarotta. Vanno molto bene per me, capito? È un sozzone, insomma. Che poi. Vabbè, lui... ma questo è un luogo comune che potremmo dire tutti, nel senso è molto più facile fallire e resuscitare perdendo 10 milioni di dollari piuttosto che perdendo 10.000 euro. No, che poi in realtà non lo so, cioè. Non so, volevo dire una cosa, ma la sono scordata. Scusate, vai, continuate. Questa è brutta, eh? È brutta. No, è brutta, però niente, non mi diviene in mente, e quindi peccato, perché praticamente dobbiamo tagliare un pezzo di trasmissione per questo. Che era più divertente. No, perché mi volevo ricollegare a una cosa, ma non me la ricordo. La, quindi, la, la parte della trasmissione. Se la smetti di cliccare cose a casaccio, mi fai un favore, poi tra l'altro, perché. Capito? Stai facendo le cose verdi, gialle. Ecco, lo sto facendo io, però. Vabbè, e questo che cos'è? Vabbè, insomma, ok, abbiamo raccontato Trump, abbiamo raccontato insomma questo suo mandato, queste sue idee che si sono un po' radicalizzate per convenienza nell'ultimo periodo, e io rimango ancora affascinato dal fatto che questo è andato in Messico e gli ha detto: oh, dobbiamo costruire il muro, cacciate i soldi. Devo segregare, cacciate i soldi. Che per me è la cosa più spettacolare, perché Alex, tu se fossi stato il presidente del Messico, io avresti risposto, insomma. Guarda, tranquillo, dammi l'IBAN, domani sì, arrivano i soldi, arrivo. Sicuro, esatto. Vai, ci vediamo domani. Intanto vai avanti con i lavori, mettici di tu i soldi, esatto, che poi sì, te li ridò. No, ma bellissimo. Ma no, se vuoi te lo costruisco, io ci metto già le porte per la gente che vuole andare. Ma, vabbè. Oh, Madonna. Sì, no, ma è... ripeto, è tutto parte di una grande barzelletta. Secondo me il mondo è già finito, noi stiamo vivendo il sogno. Una barzelletta in cui poi alla fine nessuno ride, però. Però lo sai che sta cosa che bella. Ha detto Alex è quello che penso io. Cioè, secondo me noi non ci rendiamo conto, al di là della ciclicità della storia, no? Che nella storia, quando comunque si raggiunge un X tipo di benessere, noi tendiamo all'autodistruzione. C'hanno ragione su Matrix. Perché su Matrix che ci dicevano? Che cosa ci raccontavano? Ci raccontavano che praticamente queste macchine avevano provato a creare un mondo idilliaco per gli umani. Ma poi gli umani mandavano tutta puttana e morivano. Allora era meglio che vivessero nella fatica, nella sofferenza, piuttosto che probabilmente anche un Aspetta, motivo. Così hai spoilerato Matrix. Ah, partorirai nel dolore, questa è la chiave di tutto. Esatto, partorirai nel dolore. Però poi alla fine noi abbiamo visto, che quando l'umanità raggiunge determinati obiettivi, comunque a un certo punto c'è questa regressione, questo ritorno all'egoismo, alla chiusura, a mettere i muri, a tu sei straniero, io te caccio, questo mo cacci e via dicendo. Perché è proprio una tendenza. E poi alla demagogia, cioè ogni 50 anni deve arrivare matto demagogico che comincia a dire stronzate e a creare separazione, segregazione. Bo, al di là poi il fenomeno oggi è tutto più avvantaggiato dal terrorismo. Voi sapete, io non sono un complottista, no? Non lo sono mai stato, però a volte mi viene da pensare, e qui è brutta perché attenzione, sto a dire una cosa, mi prendo la mia responsabilità, che io capisco che non c'entra niente, però capisco pure che quando l'Inghilterra fa la Brexit e tre quarti del paese non è più tanto convinto di questa cosa e la May sta a perdere le elezioni perché comunque alla fine la campagna elettorale sta andando male, c'è sempre l'evento, no? Che riaggrega tutti, ma sì, c'ha ragione, isoliamoci dal resto del mondo. Sta cosa quante volte l'abbiamo vista, no? Mo non voglio dire, no, non sto insinuando niente di specifico, però un po' ti ci fa riflettere sta cosa, no? È un caso che si può sfruttare, insomma, però insomma alla fine è un caso, Alex. È un caso. Guarda, mi piacerebbe poterti dire che è un caso, però boh. È difficile, eh? È difficile, sì, perché il problema è che non voglio passare neanche io per complottista, però è chiaro che comunque sempre, soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'è stata comunque una grande guerra che è stata combattuta sotto traccia in Europa. Se ne parlava comunque sempre della cosiddetta guerra fredda, del fatto che comunque c'erano un sacco di movimenti, di cose che succedevano e che la gente ormai non era meglio che non sapesse. Questo poi si è spostato dall'essere una guerra politica e militare a essere anche una guerra economica, però cioè, è chiaro che non può essere tutto alla luce del sole, ma è anche giusto che sia così, però appunto da qui a dire che se lo sono organizzati da soli, quello no. Aspetta, non era arrivato a tanto, però che abbiano magari, cioè nel senso che sì, magari spostano le risorse da un'altra parte, ci può stare, cioè comunque alla fine in un modo o nell'altro, cioè io non ho mai, perché come quelli dicono gli americani le Torri Gemelle se sono buttate giù da solo, è chiaro che cioè solo pensarlo, anche se poi in realtà come diceva un nostro carissimo amico Michele Salvezza, lui dice sempre la vera anarchia è agli alti livelli del potere, perché quando tu hai talmente tanto potere economico, politico, finanziario, non hai più regole, non ci sono più le regole per te, le regole in quel caso non valgono, valgono solo i tuoi interessi, no? E quindi diventa una sorta di estremizzazione dell'anarchia, dove non c'è più legge, non c'è più uno schema, non c'è più un ordine, no? E in realtà se uno va a pensare, comunque oggi sono talmente tanti interessi, talmente tante cose grosse in ballo che alla fine, come diceva mia nonna, pensar male se fa peccato, ma qualche volta ci s'azzecca. Perché... non era Giulia quella? Chi era? Anche io pensavo fosse Andreotti. Tua nonna era Giulia. No, vabbè, ma Giulio diceva gatto, perché mi mangi le mani? Scusa. Vabbè, io direi che a questo punto mettiamo un attimo un brano, poi andiamo alla seconda parte dove racconteremo altre cazzate e salutiamo e facciamo i nostri migliori auguri a Donald Trump a questo punto che avrà messo. Sta mandando gli uomini in nero qui di fuori. Esatto, sì, beh, come sta mandando tutta una serie di Luigi vestiti in nero, che poi alla fine anche sti cazzi. Non ci cagano sul materasso. No, secondo me, esatto, ci cagano proprio direttamente gente addosso a noi, insomma. E quindi vabbè, in bocca al lupo per questi mesi, saranno un po' difficili, Donald, e se poi ti rimetti ci va pure un favore. Però posso fare una domanda prima che metti il brano? Sì. Ma secondo voi la portaerei Carl Winson, quella che andava verso la Corea, ma poi è arrivata? Da mo che sta là. Sì. Ci giungiamo là, si è calmato là l'amico Fritz, perché no? Teoricamente l'hanno detto che stava verso l'Australia. Però diciamo che lui era convinto che ci stava andando. Infatti volevo sapere se poi è arrivato o meno, non so, magari ci lo dirà qualche ascoltatore. Ah, tu hai tracciato la portaerei che sta in Australia? Sì, no, era Trump, diceva no, stiamo mandando la nostra mega portaerei. Sì, lì. Sì, ma io la mia più brutta sensazione che ho è che secondo me a Trump c'ha tutta una serie di entourage che chiaramente deve cercare nella bada, che ogni tanto gli danno le pacche sulle spalle. Sì, sì, Donald, è così, tranquillo. No, ma secondo me scappa ogni tanto, niente gli scappa qualche cosa, non ce ne riescono a contenerlo bene. Niente gli scappa qualche cosa. No, è andato a spingere il bottone, no. Oh, bottone. E rientriamo in studio, insomma, perché volevamo farvi sentire questa bellissima canzone, che è una canzone che abbiamo messo assolutamente a casaccio, cioè proprio tristissimo. Ce l'avevamo lì in playlist. Io però c'ho già una bella notizia. Aspetta, perché... fammi finire di dire quello che stavo dicendo. Perché questa canzone dura troppo, dura altri 5 minuti e quindi va a fare culo. No, c'è una buona notizia, perché e quindi ritorniamo. Ha fatto un complimento al Belgio definendola una bellissima città. Sì, infatti guarda che tu ci scherzi, vabbè. Comunque scherzo, è perché lui è laureato alla Jesus University, e adesso è come, insomma, torna grande richiesta il sangue del tapiro. Vai, cosa? Non c'ho niente da mettere. Non c'abbiamo. Che cazzo? Vuoi l'internet? Potrebbe tornarmi utile sapere di che cosa sta parlando. Vabbè, ma dovresti saperlo. L'hai trovata te la notizia, l'informazione. L'ho esattamente 10 secondi fa. Ok, vai. Allora, si parla di animali. Di simpatici, cioè animaletti blu. Nello specifico, balene blu. Come balene blu? Esistono le balene blu. Blue whale. Avete sentito? Allora, parlo perché mi hanno inviato un messaggio su Facebook dicendo: oh, attenzione perché Blue Whale, e adesso vi spiegherò che cos'è Blue Whale per chi non lo sa, adesso c'è anche su WhatsApp, quindi attenzione, volete che ve lo leggo così vi faccio fare due risate? Sì, leggilo, perché allora, Blue Whale, io non so di cosa stai parlando. Blue Whale praticamente è un gioco in cui una persona che nessuno sa chi è, vi contatta sui social e vi si attacca addosso e vi costringe a partecipare a questo gioco sotto minaccia. Vi dice: ah, se non fai queste 50 prove, vengo e metto in culo tutti i parenti e amici tuoi. Faccio un casino, ti faccio la cacca sul materasso, le peggio cose. Ma sul serio? Perché per finta? E si comincia da piccoli atti di bullismo fino all'ultima prova, che è quella di buttarsi dal palazzo più alto filmandosi, quindi suicidandosi. Ah sì, questo lo so. In Russia questa cosa in Russia si dice, e che sta andando anche. Io pensavo fosse una mezza leggenda, però. No, non è una mezza leggenda, però è una bufala. Ah, una cazzata completa. Appunto. Però c'è gente che la sta studiando perché pensa che sia vera. In realtà è una bufala. Dei sociologi si sono. Esatto. No, cioè, in Italia è arrivata questa cosa, questo gioco che istiga alla morte, la nostra capacità di informazione. Esatto. E oggi mi è arrivato. No, perché c'è sta, dillo, perché è diventato famoso in Italia tutta sta perché roba. Un programma serio, che non faccio il nome, ma vediamo se Pizzi capisce qual è. Studio Aperto. Ho detto un programma, non un TG serio. Anche un programma Studio Aperto, serio. Ok. Allora, come si chiama quello lì della tizia? Sei un po' fuori strada. No. Un programma. Bravo. Giornalismo, insomma. Giornalismo serio. In cui praticamente ha portato a luce questo Blue Whale, ha detto: fate attenzione ai vostri figli, perché col Blue Whale la gente si ammazza. Io adesso quel servizio nello specifico non l'ho visto, perché ci mancherebbe. Però, che uno servizio di 30 minuti, tra l'altro, bellissimo, quindi un terzo della trasmissione, bellissimo. E oggi mi è arrivato questo messaggio. Perché dura un'ora e mezzo quella roba, non lo so quanto dura. Comunque mi è arrivato questo messaggio, no? Quello è quello che sputtana la ok. Messaggio: attenzione, il Blue Whale, non Whale, cioè hanno pure sbagliato a scriverlo, rendi conto questi. sta girando anche su WhatsApp. Non è uno scherzo. No, no, no. Se vi contatta e vi esce una chat, chi vi contatta? Se vi contatta chi? Una chat con scritto Blue While, sempre quella cosa sbagliata, non rispondete, perché basta una sola parola e ti minacceranno e assilleranno fin quando non starete al gioco e vi blocca scheda e cellulare, ma se non risponderete vi lascerà in pace. Ma chi l'ha scritto? Passate però. Un alfabeto, un Trump l'ha scritto. Forse Trump l'ha fatto, perché poi tra l'altro Blue Whale finisce con la morte, non con il fatto che vi blocca il cellulare, insomma. Attenzione, maiuscolo, avviso importante detto anche al TG. Quindi da qui vedi, bisogna dare importanza. Che sarebbero le Iene. State attenti, sta girando un video che mostra uno sfondo completamente nero. Non apritelo per nessuna ragione. Dietro quel video c'è un signore con la S maiuscola, di cui non si sa ancora bene, che spia dalla videocamera del telefono. Passatelo a tutti i contatti. Cioè, questo non hanno. Capito? Ma io, a me mi è arrivata un'altra cosa invece de Blue Whale. Che alquanto, cioè, uguale, insomma, perché sempre bufale fantastiche. Perché beh, è bello, perché io penso che chi condivide sta roba non si rende neanche conto di quello che condivide. No, perché qui dice allora domani alle ore 10. Domani quando? Domani, oggi, domani, domani. No, nel senso, domani non è importante. È sempre un dannato domani. Sono messaggio gira da 3 mesi, quindi è sempre un domani. È un domani. Domani dalle ore 10 alle ore 13 presso Piazza San Pietro. Cosa che già deve essere inverosimile, perché Piazza San Pietro a Malamena non te fanno entrare. Allora, si terrà la raccolta firme contro la possibilità che Roma installi al confine con Frascati. Il famoso Dogana, no? Cioè, il confine. Al confine con Frascati, un centro di stoccaggio rifiuti. Credo sia importante, vabbè, insomma, che insomma, il nostro territorio, viviamo tutti nel nostro territorio, difendiamolo con i braccetti che fanno. E andiamo a San Pietro, tutti a San Pietro. Domani, giustamente, però, gli hanno risposto subito a sta cosa bufala, perché in realtà era ieri. Porca puttana, ragazzi, cioè veramente io, secondo me bisognerebbe fare una trasmissione oramai. Io chiudiamo Morti di bestemmie, chiudiamo Morti di bestemmie, chiudiamo Data Nightmare, chiudiamo che ne so, Tech Radio, chiudiamo, noi facciamo una sola trasmissione solo esclusivamente su WhatsApp, perché veramente io penso che quello che fa WhatsApp non ci riesce, veramente lo dicevamo proprio il signor WhatsApp, con Walter Vannini, quello che riesce a fare WhatsApp, esatto, il signor WhatsApp non ci riesce manco Facebook, manco Trump, neanche Trump, neanche, cioè, Trump. Non è capace, WhatsApp è capace di far scoppiare le guerre. Alex, sì bravo, bravo. Sono d'accordo con sì. Te sì, bella ma guarda, ma io sto quasi pensando che forse comincia a arrendersi, perché ogni volta che leggo tutte queste cose dico ma ce la fai oppure no? Cioè, ripeto, ma a me, se uno mi mandasse una roba del genere, io rispondo: scusa, sono autorizzato a pubblicare questa cosa indicando che me l'hai mandata tu, nome e cognome? Sarebbe interessante sta cosa, perché, come dire, ma sei scemo? Io non lo so, veramente. Poi è ovvio che ci facciamo governare dai Trump, se è ci quello, facciamo mandare quello. Ma questa è la versione tecnologica, effettivamente tecnologica, delle famose fotocopie che circolavano. Attenzione, questi sono i segni degli zingari. Sì, sì, esatto. Che mettono davanti alla casa tua, presenti quelle cose meravigliose. Zingari, no, ma io mi ricordo che l'ultima volta che ho visto la cosa dei zingari era un dispaccio della polizia. Che la polizia fa i dispacci. La polizia, capito? Non è comunicato ufficiale, dispaccio dalla polizia con i segni dei zingari, no, sulle cose. Questo significa non sei in casa, questo significa sei in casa ma sei un povero invalido, quindi puoi entrare, cioè, questo veramente significa morto di bestemmia, esatto. No ma esatto. Che poi in realtà i Trump, che sono quelli che oggi vincono e traggono il beneficio, sono quelli che hanno iniziato 20 anni fa a lobotomizzare la gente, perché Berlusconi, come diceva sempre Licio Gelli, io ci ritengo sempre a ripeterlo, Licio Gelli diceva che Berlusconi con la televisione e poi con la politica è riuscito a fare quello che non è lui con la P2 non è riuscito a fare, insomma, quindi questo è importante. Ma io sono sempre stato convinto che Berlusconi sia l'oggetto finale della P2, cioè quello che doveva essere. Esatto, perché comunque il manifesto della P2 è stato si è verificato e si è diventato reale proprio del tutto con il berlusconismo, o no? E io la penso abbastanza come te, Marco se ne frega, perché ma Berlusconi lo voglio solo dimenticare. Ma non puoi dimenticarlo, che poi non muore poi, cioè nel senso è incredibile, non muore, cioè nel senso non si augura la morte alla gente, porta brutto, però non muore. lui non è però complottista, però non si augura la morte, però esatto, c'è sempre un però. E a questo punto liberi il sondaggio noli. Adesso ci sta bene. Secondo me dobbiamo metterlo nella sigla, la scoreggia. Esatto. Adesso questo è il jingle ufficiale, ragazzi. Che il Libero oggi, liberocotidiano.it, inanella una serie di puttanate che proprio è difficile da mandare giù. Cominciamo con: secondo voi è giusto non annullare i concerti in Italia? Chiudere le moschee aiuta nella lotta al terrorismo. Allora, io ho votato per vedere quali erano le percentuali. Le percentuali che dicono sì è 90%. È normale. Dovresti votare anche all'altra. Strage di bimbi, attentato a Manchester, il più orribile fatto in Europa. Fatevi anche voi la vostra classifica personale degli attentati. Cioè, capito? Che schifo. Il pupone Totti deve giocare dal primo minuto all'ultima partita con la Roma. Vota, oppure... va a votare. Non me frega un cazzo. No, va a votare. Ma non me frega un cazzo. Poi diamo il click. No, secondo voi è sbagliato fare un film su Rigopiano? Insomma, che schifo, ragazzi. No. Veramente squallida, cioè, il film squallida, squallida. Secondo voi quanti voti prenderà il movimento animalista? Mastica. Che poi tra l'altro su Sky stasera era fantastico, perché stavano sempre parlando dell'attentato di Manchester, no? E beh, abbiamo qui ospite in studio un opinionista del giornale. Che cazzo li chiami a fa? Cioè, se mezzo mondo ritiene che veramente sia al di sotto della credibilità, ma anche come opinione, che cazzo ci vai a chiedere a fare? Cioè, ma secondo lei, no, i musulmani è il male, il Corano dice che devono morire tutti e allora bisogna mandarli via. Cioè, capito? Questo è un po' il riassunto, perché ci stupiamo che ha vinto Trump. Questa è l'analisi politica, insomma, fatta da noi altri. E quindi il libero sondaggio manale, insomma, l'abbiamo visto. Oggi che il libero non si è fatto... quotidiano ci ha dato la proprio il, diciamo, come vuol dire, l'amore. Ci ha dato l'amore. L'amore è la, allora, la posta. L'amore è la posta dell'amore. Fammela lanciare. La posta dell'amore. Non so perché. Schifo. È la godereccio, capito? Che schifo. Vabbè. Anche perché. E ridete questa... che cazzo. No, non posso ridere a queste cose. Io sto ridendo, sto ridendo. Sto ridendo dentro. Dentro inside. No, sto pensando che effettivamente dobbiamo cambiare tutti gli asset della trasmissione e usare esatto. Tanto te li ritrovi, l'ho registrati. Spero di averli registrati. Un'altra qualità. Comunque, questa è una puntata di Posta dell'amore un po' anomala, perché non c'è una vera e propria amante russa che mi scrive. Però ci ho tenuto tanto a pubblicare e a leggere questa cosa, un po' come il messaggio sul Blue Whale, perché è una cosa importante che tutti devono sapere. Attenzione, vado a leggere. Vai. Fate attenzione. Ciao amico, c'è qualcosa che volevo mostrarti. È solo della roba fantastica. Dagli un'occhiata. Sinceramente, Sant Maxi. E fin qui. E tu hai cliccato, naturalmente. No, ovviamente ho cliccato, certo. Poi adesso il computer, appena comincia di nuovo a funzionare, vedrò che cosa c'è. Quando ho iniziato, circa 6 anni fa, non c'era molta buona informazione là fuori sui prodotti o circa il succo stesso. Al momento sono stato modding cartucce con filtri di serbatoio di pesce azzurro. Eccola qua la balena azzurra. Se clicchi ti spino dal cellulare. ed ero super paranoica circa ottenere qualsiasi liquido. Ma non era nuovo prima. Sì, zitto. Ed ero super paranoica circa ottenere qualsiasi liquido sulle mie mani. E già qui uno sa in mente delle cose. Se l'avessi fatto, io ero immediatamente da lavare via, perché avevo letto che la nicotina era mortale in transdermico e piccole quantità. Questi prodotti e la comunità di vaping hanno percorso una lunga, lunga strada. Applauso. Dice proprio... Ma di che parlano? Io non credo. Di che parlano? Cazzo, la sua, tu abbatti le mani. Ma non posso, perché credo che abbia a che vedere con le sigarette probabile, elettroniche. Sì, sì. Io capisco. Io pensavo che era un succo di frutta all'inizio. Borra. la fantastica nostra amica Clerici, che dovremmo farci una puntata anche su quella una volta. Sì. Fa schiuma, ma non è, ma non il sapore. È il sapore. Non è il sapore. La barra. Vabbè, ragazzi, io direi che a questo punto salutiamo i partecipanti della nostra chat, che insomma alla fine vedo c'è anche Runtime Radio. Salutiamo Runtime Radio che ci avevano a trovare in chat. Chi sono questi struzzi? Che schifo. Purtroppo dobbiamo salutare Simone Cusella, poi c'è Carmine Giuseppe, Alex, Roberto Marin, Schuren, vabbè, qualcuno Correndo, insomma ci ha fatto quelle decine e decine di migliaia di ascoltatori. Non abbiamo sondaggi come... che ci seguiranno nelle prossime puntate. Prometteremo che un giorno, speriamo, che non ci siano eventi drammatici, insomma, di tornare divertenti come una volta, ma quantomeno abbiamo fatto una puntata dove abbiamo fatto anche un po' di pensiero laterale, che non fa mai male, anche un po' di complottismo, insomma, che in fondo è dentro ognuno di noi, anche quelli che dicono di non esserlo. Comunque lanciamo il nostro nuovo format che si chiama Complotti. Tu ci scherzi, però che ci faremmo tanti di quegli ascolti se facessimo un podcast. Ma io questo lo dico da un sacco di tempo. So che dobbiamo trovare il problema è che non lo possiamo fare noi, perché non siamo più credibili. Però io ce l'ho il complottista. Ce l'hai il complottista? Ce lo sai chi è il complottista? Tocca un attimo andarci a parlare. Basta dargli un piatto di pasta e quello ci viene. È vero, hai ragione. Mi fa un po' paura, devo dire la verità. Però secondo me è innocuo, dai, è innocuo. C'è Simone Cusella che dice qualcosa. Simone dice che c'era il linguaggio segreto dei giovani che per indicare la Maria utilizzavano una foglia verde. Sempre sui citofoni, tranquillo, tranquillo, tutto a posto. Bene, allora io ringrazio tutti quanti voi, ringrazio appunto gli ascoltatori. Seguite Runtime Radio cercandola sia sul sito ufficiale, che è www.runtimeradio.it, e Runtime Radio cercate la pagina su Facebook, cercate la pagina anche di Morti di Bestemmie, si scrive così, fate mi piace, condividete tutti quanti gli eventi. Torneremo presto, perché abbiamo anche delle idee, però appunto insomma cerchiamo di tornare un po' più brillanti. Ringrazio tutti quanti gli ascoltatori, ma soprattutto ringrazio Alex Raccuglia. Ciao, e il suo Morti di Bestemmie Summer Radio, che vi ricordo torna giovedì sera alle 21 con ospiti speciali. Non so. Sì, ho l'ospite speciale, la Erte Ungaro, detto Lae, che ci ha preparato una bella playlist su lui è un chitarrista, per cui ha fatto una playlist di virtuosi di chitarra, una cosa molto interessante. Malmsteen, insomma. C'è anche Malmsteen, mi sembra. Però ricordate sempre che se stiamo parlando di virtuosi di chitarra e non ci sta Richard Benson, non si sta parlando di un cazzo. Il pollo! Bene, ringrazio anche il nostro caro amico Marco Gualdi. Io ci vediamo domani sera con la puntata speciale su Star Trek. Adesso mi vado a lavare le mani perché mi sento il liquido. Sento liquido. E noi ci vediamo domani, però aspetta. E se va avanti per 3 mesi, quindi non più domani ma ieri. Eh sì, infatti vi manderemo il messaggio su WhatsApp ricordandovi che domani, che potrebbe essere un qualsiasi domani alle 9 del vostro domani. Alle 9 domani? Sempre alle 21. Sempre alle 21, quindi di sera, 9 di sera ci sarà questa puntata di questo simpatico programma di, come si chiama? Si chiama Questo programma non ha un nome. Che bello, originalissimo, non ci avrei mai pensato. Non è questa trasmissione, non ha un nome, hai ragione. Questa trasmissione non ha un format. No, quello soprattutto in particolare. Perché è la cosa migliore.